versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori della 24, qui in diretta alle 16.31. Non giurerei però sulla precisione di questo cronometro, perché siamo in diretta ai studi di Roma, quindi capite, Roma è un po' tutto approssimativo rispetto a quelli di Milano. Naturalmente lo dico perché così in regia mi stanno immediatamente salutando con un po' di improperi. Siamo qui da Roma oggi, ogni tanto bisogna farlo, e vado subito al tema del giorno perché così vi consento di chiamare e dirvi la vostra opinione all'800240024, perché d'ora in avanti, di qui fino alle prossime settimane, elezioni europee, con l'occasione di un libro o di un personaggio, non di un politico, perché tanto i politici li trovate nelle altre trasmissioni, nella fascia mattutina di Radio 24, ma partendo o da un libro o da un protagonista o da un personaggio della vicenda di questi anni, vi daremo l'occasione di esprimervi e di dirci la vostra opinione su un tema delicato, cioè l'euro, questa Europa, vista dalla quale poi farete anche le vostre riflessioni per decidere come e se andare a votare e chi andare a votare alle elezioni europee. Allora, ne approfittiamo oggi, quindi chiamateci per dire come vi convince uscire, non uscire, i cattivi tedeschi, gli unni, i Nibelungi, siamo noi invece che avevamo problemi da prima, come sostengo minoritariamente io, e tentiamo di accollarli agli altri, il pasticcio di un'Europa che però non è cooperativa, su tutto questo ci chiamate e ci date la vostra opinione. Faremo una serie di trasmissioni su questo tema, ma oggi partiamo con un libro che, di quelli che ho visto fino a questo momento, ne stanno uscendo un bel po', quindi avremo occasione di diversi punti di vista. Per il momento è quello che considero più utile per farsi un'opinione, per chi non ha avuto tempo davvero di seguire e di impilare tutti gli avvenimenti di questi ultimi anni. Quindi è intanto un Baedeker, una guida ricostruttiva di quello che è avvenuto, da una parte. E dall'altra mi piace anche il punto di vista di chi l'ha scritto, quindi dichiaro il mio conflitto di interesse, per così dire. Questo libro si intitola La lunga notte dell'euro, è nelle librerie da oggi, l'editore è Rizzoli, La lunga notte dell'euro, e lo hanno scritto due colleghi molto bravi, Alessandro Barbera, giornalista della Stampa, e Stefano Feltri. Abbiamo avuto Stefano ospite la settimana scorsa a questi microfoni, Stefano Feltri, che scrive invece per il Fatto Quotidiano. Insieme hanno scritto questo La lunga notte dell'euro, che lo dichiaro in poche parole prima poi di fare un po' di domande all'ospite, perché qui con noi oggi pomeriggio in studio Alessandro Barbera, anzi buon pomeriggio e grazie di essere qua. Buon pomeriggio, grazie Oscar dell'invito. Allora, questo libro è fatto in buona sostanza con quattro blocchetti. Sono 200 pagine fitte, utili anche perché alla fine c'è un glossario per richiamarvi alla mente e spiegarvi tutti quegli acronimi, quelle siglette di cui è fitta la politica europea, l'ESM, l'SFSS, l'AQR, eccetera, eccetera, perché ovviamente per noi un po' addetti ai lavori è abbastanza chiaro, non è detto, ma è abbastanza chiaro che cosa vogliono dire, per voi giustamente un po' meno, perché c'è da lavorare e fare altro. Detto questo, questi quattro blocchetti in sintesi che cosa sono? Uno, primo blocchetto, per me molto utile, perché ristabilisce una verità fattuale, cioè ricostruisce i fatti. Ci abbiamo provato. Di tutta l'estate del 2011, cioè l'estate delle tre manovre di Berlusconi, per intenderci, quella che poi va a finire con, dopo il G20 di Cannes, con Berlusconi travolto, dopo tre successive riscritture di un Berlusconi però che, a differenza di altri libri, uno per tutti, Il Gattopardo di Friedman, Berlusconi dipinto come una specie di vittima di un grande complotto, Berlusconi addirittura in quei mesi aveva anticipato l'azzeramento del deficit al 2013 e aveva firmato tutta una serie di impegni al cui confronto persino quelli di Renzi sembrano scadenzati nel tempo, perché se andate a vedere esattamente di questo si tratta. Naturalmente poi nulla si è visto. Quindi in questo blocco dell'inizio della crisi, della fase più acuta della crisi dell'Italia, quindi l'estate del 2011, c'è una ricostruzione per me, anche per me come giornalista, oggettiva dello scontro tra Tremonti e Berlusconi, del fatto che ovviamente questo ha contribuito in Europa, oltre al nostro debito, al nostro ritardo, a farci perdere credibilità. Primo blocco, questo qua. Un secondo blocco, quindi diacronicamente nel tempo, successivo, Quindi l'avvento di Monti, non come espressione di un complotto, ma come espressione di una roba che guidata dall'Europa e anche da parti del Quirinale che dicevano qui alemai andiamo altrimenti a gambe all'aria, nella quale, questo è il mio punto di vista, quindi anticipo anche qualche critica, gli autori sono, per così dire, sposano molto la tesi di un Monti che dopo i primi mesi, quando inizia a depotenziarsi, è più vittima che a propria volta artefice di qualche cosa che non funzionava, perché c'erano troppe tasse rispetto ai tagli di spesa, e viene ricostruita in questo secondo capitolo una parte poco presente nel dibattito italiano, perché si ricostruiscono i tentativi di Monti, mandando in bianco i tedeschi che chiedono ancora di mandarci la troica e il fondo monetario, di opporsi a questi tentativi, nella convinzione che fosse meglio per l'Italia assolutamente evitarlo. C'è anche chi pensa che invece con la troica andavamo meglio. Poi c'è un terzo blocco che descrive, per così dire, il grande protagonista che ha salvato molti dei problemi a cui il ritardo della politica europea, poco cooperativa e molto zigzagante sulle cose da fare nel tempo, li ha salvati, cioè la BCE, soprattutto la BCE di Mario Draghi rispetto a quella di Trichet, in cui si spiega, quindi le aste, le TRO di alta liquidità e bassa qualità dei collaterali, e poi la famosa frase whatever it takes, qualunque cosa necessaria per difendere l'euro, un po' questa arma totale mai vista in azione, ma che è servita molto. Poi c'è un quarto capitolo sulla sregolatezza delle regole della finanza, soprattutto delle banche, perché molti si concentrano sulla finanza pubblica e su quello che ci aspetta, ma pochissimi ricordano che qui c'è un enorme problema da cui la crisi è nata, in cui poi si è ripercossa e che si è sovrapposto al rischio sovrano degli stati, cioè il rischio bancario, in cui ciascuno ha fatto, ognuno a casa propria e in ogni paese membro come meglio riteneva, e alla fine è tutto ancora un problema aperto, visto il peso che nei nostri attivi bancari c'hanno sofferenze e incagli e visto il ritardo con cui nasce l'unione bancaria. Questi quattro blocchetti per una conclusione. Allora, iniziamo con il primo capitolo, Alessandro Barbera. Non c'è stato il complotto quindi nel 2011? No, non c'è stato nessun complotto. Chi dice che c'è stato dice una cosa che è un falso ideologico. La verità è che quello che è accaduto nel 2011 è stata la crisi drammatica di un governo che peraltro aveva cominciato la legislatura, lo ricordo per chi l'avesse dimenticato, aveva più di 100 parlamentari di maggioranza, che si è una maggioranza lentamente dissolta e che ha avuto la sfortuna per il centrodestra in quel momento di sfaldarsi in un momento delicatissimo della vicenda europea, e cioè il momento nel quale sostanzialmente per una serie di ragioni che cerchiamo di raccontare anche per in qualche modo essere onesti nei confronti di Berlusconi, perché naturalmente sostenere che la causa di tutti i mali sia stata Berlusconi o certo che no, lo scontro fra Tremonti e Berlusconi sarebbe riduttivo. La verità è che però questo scontro dentro al governo fra Berlusconi e Tremonti è arrivato in un momento difficilissimo per la situazione europea. C'era la Merkel e Sarkozy che non sapevano che fare, la crisi greca che si andava invece che risolvendo incartando, la crisi spagnola che non era ancora arrivata e che stava per arrivare, che è stata la mazzata definitiva per chi già stava affrontando la crisi irlandese, la crisi portoghese, eccetera. Questa vicenda è culminata in novembre con sostanzialmente le cancellerie europee a novembre 2011 hanno avuto la netta percezione che il governo italiano fosse paralizzato e che non fosse in grado di prendere alcuna decisione. Ora, in condizioni normali probabilmente un qualunque governo avrebbe potuto continuare, tra virgolette, ad esistere pur non senza dispiacere dei propri cittadini. In quel momento tutte le cancellerie europee, la Casa Bianca, erano preoccupatissime, le istituzioni europee erano preoccupatissime per quello che stava accadendo in Italia, e quindi in qualche modo quella situazione, quell'intersecarsi di queste due crisi hanno innescato la fine di un governo che probabilmente, forse qualche mese dopo, sarebbe caduto da solo. Oh, però all'interno di questa dialettica molto forte tra l'allora Presidente del Consiglio e il suo Ministro dell'Economia Tremonti, quando arrivava il 5 di agosto la lettera dalla BCE che per la prima volta dettagliava molto approfonditamente, pur non essendo noi sottoposti a un programma di rientro coatto e vigilato dalla Troica, però ci diceva che cosa fare per filo e per segno per la prima volta. Però poi c'era un pezzo di centrodestra, il ministro della funzione pubblica in quel governo, Brunetta, che in realtà aveva cooperato alla scrittura di quella lettera e in buona sostanza era favorevole a quel vincolo estero. Adesso la dice in tutt'altro modo. Sì, in quel momento, diciamo, Brunetta, che è un uomo sempre mosso da grande ottimismo della volontà, tentò di far diventare la lettera della BCE un'occasione per il governo Berlusconi, l'occasione per vivere, sopravvivere un po' di più alla sua crisi, ed è quello che riuscì a ottenere in fondo, perché la lettera è del 5 agosto, il governo Berlusconi cade in novembre e quindi in qualche modo la cosa riesce. Perché? Come funziona? Come va la vicenda? Diciamo, quello che noi siamo riusciti a ricostruire è che Trichet avrebbe scritto, stava per scrivere all'Italia così come aveva fatto aveva fatto per l'Irlanda e stava per fare per la Spagna. Non siamo gli unici ad aver ricevuto lettere dalla BCE. Però quelle degli altri sono rimaste nel cassetto. Quelle degli altri sono rimaste nel cassetto, e questo è significativo, fa capire perché, quali sono le ragioni sottese alla ragione per la quale è venuta allo scoperto. Cioè ragione di politica interna. E c'è una ragione di politica interna, e quindi che si può riassumere così, che Brunetta in quella fase tentò, spinse Berlusconi a cercare di fare di necessità virtù e quindi in qualche modo a sottoporsi a quelle ricette che in qualche modo la BCE ci indicava, e allo stesso tempo si tentava in questo modo di in qualche modo depotenziare Tremonti, che stava invece, si era messo di fatto di traverso e che lui non lo ammetterebbe nemmeno sotto tortura, ma in quel momento sperava di poter diventare, agli occhi delle istituzioni europee, delle grandi cancellerie, l'alternativa possibile al Berlusconi, ad un Berlusconi che era preso dallo scandalo del Bunga Bunga, insomma obiettivamente non era sulla palla, per dirla in parole povere. Ora la prima obiezione che si può fare è: ma la BCE non aveva diritto di scrivere all'Italia, non ha nessun titolo per scrivere all'Italia e dirgli quello che deve fare, e questo è certamente quello che pensano in molti. Quello che abbiamo cercato di spiegare nel libro, nel quale diciamo che la BCE è l'unica istituzione che funziona in Europa e per nostra fortuna o sfortuna è l'unica però non democraticamente eletta, è che abbiamo costruito un sistema, una moneta unica, nella quale l'unico potere reale in qualche modo di verifica della convergenza fra le politiche economiche degli stati è della BCE. E quindi la BCE in quel momento, così come negli anni successivi, non ha fatto altro che interpretare o semplicemente riempire un vuoto che la politica europea non è mai stata in grado di riempire, né quella di Bruxelles né quella delle cancellerie. Allora, sentiamo intanto un nostro ascoltatore, Michele da Cuneo. Prego, Michele. Michele, sì, buonasera a tutti quanti. Buonasera. Prego, Michele. Io ritengo che si possa restare in Europa solo dal momento che o la Germania o l'Europa si commissaria, in quanto in Italia non c'è una classe politica competente e che faccia il bene del paese, ma bensì fa solo il bene dei partiti, i bene personali e punto e basta. Siamo commissariati, io ci rimetto in prima persona, ma sarei d'accordo a restare in Europa. Allora, Michele pone un punto che poi è fondamentale nella tutta l'illustrazione che fate nel vostro libro, La lunga notte dell'euro. Stiamo parlando di questo libro di Rizzoli, editore, autore Alessandro Barbera e Stefano Feltri. Quando si arriva a Monti, che naturalmente nella memoria degli italiani resta la stangata fiscale, l'elevazione, l'intervento sulla pensione di anzianità equiparata a quelle di vecchiaia, poi gli esodati e così via, si attenua molto poi la sua presa, quindi restano soprattutto le tasse, ma voi lo leggete soprattutto proprio alla luce della resistenza in tre diverse occasioni, fori internazionali, che Monti pone in essere di fronte alla persistente richiesta a quel punto: ma perché non vi fate commissariare, siete a fine legislatura, sarebbe un bel vincolo che garantirebbe anche a voi stessi che rimanete incatenati ai vostri obiettivi, quel vincolo che richiamava esattamente il nostro ascoltatore. Sì, devo dire, prima dicevi che forse la nostra versione sarebbe stata un po' troppo filomontiana, per la verità rivendico il fatto di aver scritto insieme a Stefano che noi abbiamo un atteggiamento molto dubbioso rispetto alla scelta fatta da Monti, nel senso che se guardiamo a quello che è accaduto negli ultimi anni, e posto che le ricette di una troica o di chi per lei sono durissime e quindi nessuno dovrebbe augurarsele per il bene delle persone che poi ne subirebbero le conseguenze, anche se però ammettete che per Spagna, Portogallo, no, arrivo eccetera, arrivo al punto, posto che quindi c'è un aspetto sociale che a quanto pare è quello che ha spinto Monti a non procedere, cioè Monti evidentemente temeva uno scenario alla greca, in un paese che ha vissuto il fascismo, avere qualcuno che dall'esterno ci dicesse che cosa fare, e quel qualcosa era molto pesante, il timore di Monti e forse anche non solo di Monti era che da un punto di vista sociale la cosa non avrebbe retto. Dopodiché diciamo anche, questi sono fatti acclarati sotto i nostri occhi che vanno messi in fila, che tutti i paesi che sono stati negli ultimi anni sotto programma del Fondo Monetario, fuori dall'Europa o in Europa, faccio un esempio su tutti, la Turchia, la Corea del Sud, cioè io sfido qualcuno a ricordarsi che la Corea del Sud era sotto programma di aiuti qualche anno fa, o l'Irlanda e persino la Spagna, che peraltro ha chiesto aiuti internazionali solo per le banche, beh, sono tutti paesi che oggi si sono ripresi, hanno ripreso un percorso di crescita che è decisamente più rapido e più efficace del nostro, e quindi la domanda da porsi e che ci siamo posti e lasciamo al lettore l'ardua sentenza è forse chissà se Monti ha fatto bene a dire no, se ha peccato d'orgoglio a nome di tutti gli italiani o se invece forse un po' di quei soldi ci avrebbero aiutati a uscire dalle secche più rapidamente di quanto non stia accadendo. Io credo che Monti pensasse che con le elezioni politiche poi ci sarebbe stata una tutt'altra continuità rispetto al suo governo. Credo che questo sia stato il suo errore. Ammetto che sarebbe stato durissimo l'impatto di un programma coatto di rientro per l'Italia, però di fatto gli altri stanno ripartendo prima di noi, con danni sociali terrificanti, disoccupazione, non si discute, però per il momento l'Italia resta molto appesa alla sua inaffidabilità. Adesso abbiamo 60 secondi di informazione stradale. La versione di Oscar. Eccoci tornati qua in diretta, 16:49 di Studi Radio 24. Stiamo parlando come spunto, il libro è La lunga notte dell'euro, chi comanda davvero in Europa, Rizzoli Editore, di Alessandro Barbera che è qui con noi in studio e di Stefano Feltri, e leggetelo, ne vale davvero la pena. Abbiamo visto da dove parte il libro, l'estate terribile del 2011, eravamo arrivati a Monti e al suo no alla troica. Un nostro ascoltatore ci manda un messaggio che mi colpisce molto, perché recita testualmente: un giorno qualcuno riconoscerà Mario Draghi come colui che salvò l'Italia nella crisi, in silenzio, senza chiedere né ricevere niente, da solo. Beh, è un'opinione questa dell'ascoltatore che è difficile che venga difficile espressa in questo modo. Sì, difficile ascoltare. Noi in qualche modo però glielo riconosciamo, perché Draghi ha effettivamente, ma questo accade nella seconda fase, dall'estate 2012 in poi, cioè da quando lui fa questo famoso discorso a Londra che in qualche modo passerà la storia dell'euro, nella quale lui dice che la banca centrale farà qualunque cosa nelle sue possibilità per salvare l'euro dall'autodistruzione. Quello è l'inizio della fine della crisi più acuta della moneta unica, perché da quel momento in poi la Banca Centrale Europea dà la sensazione ai mercati, perché poi i mercati vivono di sensazioni, di aspettative, di fiducia, esattamente come tutti noi, dà la sensazione ai mercati, dicevo, di essere in grado di affrontare fino in fondo quella crisi. Peraltro lo strumento che si inventerà, che sono questi OMT, che noi cerchiamo di spiegare in maniera il più possibile meno tecnica per spiegare che cos'è, è uno strumento che non è mai entrato in funzione, quindi dimostrazione del fatto che la bravura di Draghi è stata quella di dire una frase che dietro alla quale c'era un piano, ma in realtà questo piano non si è mai dovuto attuare, perché la credibilità che lui in qualche modo ha costruito dalla guida della BCE è stata sufficiente a garantire che non ci fosse il default dell'area euro. Naturalmente questo lo dico, questo non significa che noi consideriamo la fine della crisi dell'euro una cosa avvenuta, anzi noi diciamo che siamo ancora pesantemente dentro la crisi dell'euro, per ragioni che hanno a che fare con essenzialmente la mancata costruzione di un di qualcosa che sostanzialmente sia una vera, un vero sistema unico di gestione della finanza, che è l'unica soluzione secondo noi perché l'Europa faccia un passo avanti, oltre naturalmente a doversi dotare di strumenti politici più efficaci, ma naturalmente questo è probabilmente sarà solo l'ultimo passo della costruzione della moneta unica. Alessandro, io vorrei naturalmente ricordarti che nel frattempo la raffica di improperi e insulti, e anche considerazioni prive di improperi e insulti, ma comunque molto accese, che ci arriva testimonia che questi temi spaccano verticalmente qualunque pubblico italiano, perché per un Luca che scrive che Draghi verrà ricordato come il più grande banchiere centrale di sempre, c'ho un mucchio di messaggi che dicono lo Stato sovrano non ne raccontate palle, potrebbe emettere, se torna di nuovo sovrano, la sua moneta, emettere moneta senza costi, avere risorse per portare a zero la disoccupazione, tutti lavorano e hanno soldi per comprare alimentare al mercato interno. Io non penso affatto che sia così, però questi sono messaggi che arrivano. Oppure, ma che cazzo di domande fa Giannino? In Grecia hanno licenziato centinaia di migliaia di persone, certo che ripartano da meno 20 di PIL, si può solo risalire. Oppure, Giannino, vai a quel paese, ma vaffanculo tu, l'euro e tutti quelli che dicono palle al servizio delle banche. Al servizio delle banche, ovviamente. Guardate che se leggetelo, troverete sulle banche un capitolo in cui le si fa abbastanza affette, perché su questo è un po' singolare, no? Che se uno non racconta che si può uscire dall'euro dalla sera alla mattina e tutti sono felici, cosa che vi garantisco è una cosa che non sta né in cielo né in terra, però si passa per servire le banche. No, probabilmente in giro per l'Europa ci sono molti banchieri che tutto sommato spererebbero nella fine dell'euro, perché quello che noi cerchiamo di raccontare nel libro è che mentre negli Stati Uniti dopo la crisi di Lehman Brothers sostanzialmente il regolatore americano ha preso di petto il problema e per farla breve ha costretto 500 banche a chiudere perché incapaci di stare sul mercato e troppo fragili per stare sul mercato, in Europa le banche che hanno subito questo trattamento sono state dall'inizio della crisi 40, 500 a 40. Stiamo parlando di due entità, diciamo, che si possono considerare quasi omogenee, Europa e Stati Uniti, pur se avendo, diciamo, presupposti, partendo da presupposti giuridici diversi. Quello che noi diciamo è che il motivo per il quale non si è fatto nulla è perché ci sono ancora troppe resistenze nei singoli paesi, perché si dia all'Europa, o meglio, si costruisca un'unione bancaria che costringa le banche ad essere capaci di fare, tornare a essere capaci di fare credito. Una delle tante cose che io personalmente ho scoperto con mia grande sorpresa, quando si scrivono i libri spesso è per imparare qualcosa, è che ho scoperto grazie ad un banchiere che io non conoscevo, che si chiama Antonio Foglia, che un qualunque hedge fund americano, gli hedge fund sono noti, no, come siamo nell'immaginario collettivo, le cavallette, come i cattivi, sì. Hanno una livello di patrimonializzazione, sostanzialmente hanno una solidità patrimoniale molto che più elevata di quella circa tre volte quella di una qualunque banca commerciale. Adesso scusa, io devo rispondere a uno degli ascoltatori, mi dice: ma come, mi stupisco di te, per come se lamento? No, io sono semplicemente stufo di un paese che prende impegni che non rispetta mai. Non è che io voglio il commissariamento, l'abdicazione. Io vorrei un paese nel quale le banche fossero state indotte a essere patrimonializzate e, per esempio, a Siena si fosse penalizzato l'azionista. Capite? L'azionista che noi ancora una volta, malgrado tutti gli errori, abbiamo autorizzato a crescere nel capitale di quella banca, iperindebitando, sto parlando della fondazione del banco del Monte dei Paschi, e ancora oggi abbiamo anteposto la sua salvezza a quella della banca, mentre invece la regola europea è stata quella che se salta una banca bisognerà colpire anche oltre i 100.000 i depositi. Ecco, io vorrei salvare i depositi e colpire gli azionisti, come si è fatto altrove. Noi invece abbiamo prestato a MPS, non ho capito esattamente se fra i 4 e i 6 miliardi, insomma comunque certo non meno di 4 miliardi, sostanzialmente permettendo all'azionista che l'ha mandata in quelle condizioni di continuare a governarla. Esatto, e questa è la differenza, altro che gli amici delle banche. Gli amici delle banche sono quelli che, capito, hanno autorizzato quegli aumenti di capitale nel frattempo, che poi erano d'accordo con l'idea, questa è un'idea che passa su Cipro, che se poi salterà una banca si colpisce chi ha più di 100.000 euro dentro. Io sono per gli azionisti, gli obbligazionisti senior, ma tutti gli altri vanno tutelati, però gli azionisti sì che devono perdere valore, perché sono loro che non hanno fatto il loro mestiere. Questo è il modo per cui secondo me si può far fallire le banche, colpendo gli azionisti e non il deposito, però come vedete c'è molto da discutere. Sentiamo Angelo da Vicenza come la pensa invece. Angelo. Buonasera. Buonasera. Io credo che si possa creare un terzo polo del tipo il presente non votante. Il presente in che senso? Nel senso che entro al seggio, mi faccio registrare e dopo dichiaro che i partiti elencati non mi rappresentano. Faccio parte della scheda della percentuale votante, perché il partito che non vota, sappiamo, è il 35%, io faccio parte della scheda dei votanti, ma le percentuali che ne esce fra il vincitore e il vinto si assottigliano, perché io comunque... Certo, perché lei non è che si astiene, lei pretendendo la messa verbale è un voto, per così dire, che contribuisce al monte dei voti su cui poi si fanno le percentuali. Questa è una riflessione di Angelo da Vicenza. Ohimè, il tempo è scaduto, qui ci sarebbe molto da parlare, voi farete molte presentazioni, mi auguro che abbiate molti lettori. Speriamo. No, e soprattutto però riequilibrato, ci vuole qualche fonte tedesca solo rispetto a Monti, guarda che la racconta in maniera molto diversa la Germania, quello che è avvenuto in quei tre vertici. Comunque mi dicono che dobbiamo tagliare, leggete il libro La lunga notte dell'euro di Alessandro Barbera e Stefano Feltri, appuntamento con me a domani, continuate su Radio 24.